Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Inizia la settimana con i nostri approfondimenti insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Gianluca, adesso so che mi parli di dipendenza in qualche modo, no? Qualche giorno fa sui giornali si parlava del fatto che i cinquantenni sono quelli che sono dipendenti dal gioco, ma so che adesso mi dirai che ci sono i cinquantenni che sono la categoria che fuma di più, sono quelli più accaniti, perché oggi parliamo di fumo, di sigarette e anche c'è una cosa interessante che mi devi dire. Sì, come ormai sapranno tutti i fumatori, le sigarette sono aumentate. Altri 20 centesimi a pacchetto e sicuramente un'altra mazzata, perché Francesco, è noto che è tra i prodotti, chiamiamoli così, che aumentano con più frequenza. Quindi diciamo, non avrà fatto felice molte persone questa notizia. È pur vero che però anche l'aumento dei prezzi delle sigarette può sicuramente aiutare anche chi fuma tanto magari a fumare meno, o a chi fuma poco a smettere di fumare, che come sappiamo anche l'Istituto Superiore della Sanità è l'invito più grande che viene fatto sempre, quello di smettere di fumare poco, perché chiaramente è noto ormai che il fumo provoca il cancro, quindi il fumo sia cancerogeno. Ecco, anche perché poi abbiamo già l'inquinamento che è in costante aumento, quindi già quello non ci fa bene, se poi uno fuma in più è ancora peggio. Ecco, sicuramente da questo punto di vista c'è una diminuzione delle persone che fumano, e dopo appunto tu hai introdotto il discorso dell'età, lo vediamo un attimo. Sicuramente bisogna dire che una legge fondamentale è stata la legge Sirchia, che ha impedito, che poi era dettata anche da una normativa europea, che ha impedito di fumare nei locali chiusi, insomma. Sicuramente anche questo ha portato molte persone quantomeno a diminuire il loro consumo di sigarette, se non a smettere, insomma, perché quando si perde il piacere di fumare la sigaretta in un luogo chiuso, magari a poco si perde anche l'abitudine. Ecco, dicevi, giustamente parlavamo un po' di età. L'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito alcune cose, tipo che i fumatori più accaniti sono proprio i cinquantenni, quindi da questo punto di vista i più giovani e i più anziani non possono essere definiti dei tabagisti assoluti, ecco, assolutamente. Poi un'altra cosa molto interessante che è emersa dallo studio, dell'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, è il fatto delle regioni dove si fuma di più. E poi è un po' curioso, no? Sì. Anche uno studio sicuramente complesso, rileva che si fuma di più in Campania, circa un quinto della popolazione, il 22% della popolazione, e in Umbria siamo sulle stesse percentuali. E mentre sono i più bravi, non ci stupisce, i cittadini della provincia autonoma di Trento solo il 16% fuma, e anche quelli della Calabria solo il 16,2% di loro fuma. Ecco, diciamo, questi dati comunque danno l'idea di un problema che è ancora diffusissimo, anche se in maniera nettamente inferiore rispetto ad anni fa. Di certo l'aumento, l'ennesimo aumento del costo al pacchetto potrebbe essere anche un incentivo, ripeto, nella lotta al fumo. Sì, e il fatto che ogni volta che uno prende una sigaretta in mano e se la fuma, brucia proprio fior di denaro. Un pacchetto costa di media 5,50 euro, 6 euro, credo. Io adesso non sono un fumatore, forse è tanto. Anch'io non sono un fumatore, però sì. Sono tanti soldi. Appunto, il pacchetto da 20 sicuramente ha un prezzo superiore ai 5 euro. E ricordiamo che ci sono tante persone che ne fumano anche più di un pacchetto. Sì. E quindi insomma è un bel costo, può essere anche un 10 euro al giorno. Quindi c'è questa notizia, la cosa migliore da fare è smettere assolutamente di fumare, e così ne guadagniamo in salute e anche le nostre tasche sorrideranno. Ecco, scusa Francesco, importante, ovviamente è giustissimo quello che dici, e maggio è anche il mese dedicato alla lotta al fumo. E tra l'altro il 31 maggio è in programma il World No Tobacco Day, quindi mi raccomando, ecco, magari io e te non siamo interessati, però invitiamo magari i fumatori a un giorno di sacrificio, e insomma, se almeno per il 31 maggio riescono quantomeno a fumare una sola sigaretta, sicuramente sarebbe un bel risultato. Ecco, una dieta da fumo. Allora, grazie per questa segnalazione all'Adico. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, lì trovate tante belle notizie interessanti, come magari questa che vi abbiamo appena raccontato, e anche i contatti per chiedere lumi per qualsiasi cosa all'Adico. Grazie anche a Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno per un nuovo appuntamento. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.